Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Da vari siti esteri si evince che non esiste un modello uniforme per prevenire i terremoti. Però è condiviso che esistano una serie di segnali che, messi insieme, debbano almeno mettere in allerta. Nel tragico caso di domenica notte, il fatto che ci fossero state frequenti scosse e un incremento notevole delle concentrazioni di radon avrebbe potuto, se non altro, essere un'occasione per trovare le autorità e i soccorsi un po' più pronti, almeno con un piano di crisi ed evacuazione già pronto. È veramente duro rassegnarsi all'idea che non riusciremo a salvarli tutti. Per esempio, avrebbero potuto dire, già la scorsa settimana, che nel malaugurato caso il luogo di raduno avrebbe potuto essere, ad esempio, lo stadio, e magari per disporre anche qualche ruspa e ospedale in più. Solidarietà a tutte le vittime. Lorenzo. Incuriosito e furibondo per le polemiche nate sul terremoto, se si poteva prevenire o meno, ho fatto domande agli amici, studenti e ricercatori in geologia, e tutti mi hanno detto che i terremoti non sono prevedibili. Lo stesso ricercatore Giuliani lo aveva predetto una settimana fa, ma aveva detto che sarebbe avvenuto a Sulmona e non all'Aquila. Quindi anche lui ha sbagliato. Quello che invece dobbiamo dire è che le costruzioni italiane devono essere messe in sicurezza, perché il vero problema non sono i terremoti, ma le case che crollano come nulla. Mirko da Bari. Relativamente alla prevedibilità dei terremoti, qualche anno fa un mio amico che si stava laureando in sismologia mi disse che aveva trovato un modo che, utilizzato sui dati passati, era stato in grado di prevedere il 100% dei grandi terremoti che c'erano stati in Italia nel 1900. Purtroppo mi disse che in realtà era semplicissimo trovare un metodo del genere. Il problema del suo metodo, infatti, è che oltre a prevedere tutti i terremoti effettivamente avvenuti, prevedeva qualche altra decina di terremoti l'anno, che tuttavia non si verificavano. Quindi il suo metodo era semplicemente inutile. Questo vuol dire che il problema è molteplice. Da una parte si deve essere in grado di prevedere luogo, ora e intensità del sisma. Dall'altro si deve essere in grado di evitare tutti i falsi segnali, altrimenti all'atto pratico si ha lo stesso valore di tirare a indovinare. Alessandro. In Italia è vero, siamo tutti esperti di calcio e oggi siamo anche tutti esperti di terremoti. Non sono un sismologo, ma sono uno dei reduci dello tsunami. All'epoca ero tra i 15 dispersi alle isole Andamane. Epicentro dello tsunami, un terremoto della durata di circa 9 minuti e 40, con intensità di 9,3 gradi della scala Richter. Da allora ho iniziato a studiare i terremoti e la loro possibilità di essere previsti. Senza polemiche, ma ho il terrore che i media in qualche modo subiscano, come lo subirono all'epoca dello tsunami, qualche condizionamento. L'ente sismologico più importante al mondo è l'USGS, che mette a disposizione della popolazione californiana un sistema di previsione dei terremoti. È una previsione indicativa, raggiungibile via web, via telefonino e via mail. La popolazione può avvalersene o meno, ma è una sua scelta. Se gli indicatori evidenziano la possibilità di un terremoto, la popolazione deciderà se mettersi in salvo. Ecco, questo alla popolazione dell'Abruzzo non è stato concesso. Esistono fior di enti al mondo che sperimentano e comunicano. Da noi non è possibile comunicare perché non si hanno i mezzi per sostenere gli strumenti tecnologici. Ambrogio. Abito a San Daniele del Friuli e sono testimone del terremoto del 76. Abito in una casa antisismica e vi posso garantire che dormo sonni tranquilli, perché qui le costruzioni antisismiche sono tali da sempre e non si sgarra. Chissà come mai. Luciano. Questo esperto che aveva previsto il terremoto mi fa impressione. Pare quasi che sia in cerca di pubblicità sulla pelle dei disgraziati coinvolti nel sisma. Sarebbe opportuno seguirlo da vicino, d'ora in avanti. Quanto ci guadagnerà da questa sua campagna di autopromozione? Possibile che persone di cultura, che dovrebbe avere parentela con la saggezza, in un momento del genere sollevino un vespaio simile? La dignità non la insegnano più nelle università. Girolamo. Al di là delle polemiche, forse sterili, sulla prevedibilità dell'evento sismico, vorrei portare l'attenzione su quello che è il vero nodo della tragedia odierna. La Protezione Civile, già nel 2003, aveva emesso un'ordinanza che prevedeva la mappatura dello stato degli immobili in Italia e il loro successivo adeguamento sismico. A causa della cattiva politica, favorita forse anche da certi tecnici, sono state intraprese delle beghe ampollose che hanno comportato un ritardo senza precedenti e una confusione nella normativa tecnica di settore. Il risultato è che dal 2003 ad oggi non si è fatto niente di tutto ciò che era stato diligentemente e saggiamente richiesto e predisposto nell'ordinanza. Perlomeno il crollo degli edifici con funzione strategica per la Protezione Civile è figlio anche di questo ritardo di almeno 6 anni. Mentre per la capacità previsionale dei terremoti si è ancora in una fase di ricerca, la progettazione e l'adeguamento sismico sono già una scienza quasi esatta. Davide. Volevo segnalare lo sciacallaggio che da lunedì Grillo, Travaglio e tutta la compagnia degli Arruffapopolo stanno portando avanti sul terremoto. Basta leggere il blog di Grillo per farsene un'idea. Anziché affrontare le cose con metodo scientifico e logica, hanno eletto l'allarmista del radon come loro nuovo guru. Un responsabile della Protezione Civile ha detto che costui aveva previsto 7 giorni fa un terremoto a Sulmona e che se avessero evacuato la città avrebbero portato gli abitanti all'Aquila, con effetti immaginabili. È vergognoso anche il polemizzare dell'Unità, perché su simili cose il teatrino della politica non dovrebbe fare scenate. Per i terremoti del 1996 o la slavina di fango a Sarno del 98 non ricordo un simile accanimento. Non sanno a cosa aggrapparsi. Marco. Ho trovato infame che tutti gli speciali televisivi e radiofonici di lunedì dessero spazio alle pause pubblicitarie, come se fosse una giornata di normale programmazione, come se tutto si potesse fermare davanti al disastro, ma la pubblicità no. E con che faccia poi vengono a chiedere al pubblico l'SMS da 1 euro, la solidarietà a noi, quando potrebbero chiederla agli investitori pubblicitari? Davide. Ho avuto l'opportunità di vivere in prima persona il terremoto di San Francisco del 1989, in un'epoca nella quale non c'erano i telefoni cellulari. Anche se il ricordo è ormai lontano, posso riportare quanto ancora mi è rimasto dentro. Ricordo perfettamente l'estrema tranquillità nella gestione dell'emergenza. Utilizzando le radio locali, le autorità comunicavano in continuazione con la popolazione, indirizzando aiuti dove necessario e informando continuamente sulla situazione e sugli sviluppi. A differenza di quanto successo da noi, la pubblicità non veniva mandata in onda e il folklore era quasi completamente assente dalle trasmissioni. Per folklore intendo tutte le storie di eroi, miracoli e altre sceneggiate tipiche italiane. Le radio si limitavano alle notizie pure e semplici, alle comunicazioni di servizio e un po' di musica per sollevare il morale. La preparazione della popolazione era evidente. Ricordo di essermi trovato in un grosso incrocio dove, essendo saltati i semafori, nel mezzo dell'incrocio, una signora anziana regolava il traffico e tutti gli automobilisti seguivano le sue indicazioni. Probabilmente non è vero che i terremoti non si possono prevedere. Il problema è che non possono essere previsti con precisione assoluta. Tuttavia, a San Francisco prevedono che vi sarà il Big One. Non sanno quando, ma ci sarà. E di conseguenza si preparano da anni. In Italia non siamo in grado di accettare la fatalità degli eventi naturali come i terremoti, per cui nel momento in cui si accetta l'ipotesi di una previsione di un evento catastrofico, bisogna pensare a gestire il panico e l'emergenza. Pochi italiani sono pronti a spendere tempo e denaro per attrezzarsi o prepararsi a un'eventuale catastrofe. In Giappone hanno una quantità di terremoti ben superiore alla nostra, eppure costruiscono centrali nucleari, ponti, autostrade, ferrovie superveloci, eccetera. È l'approccio che è completamente diverso, pragmatico e rigoroso. Si organizzano spesso esercitazioni e la popolazione generalmente sa cosa fare in caso di disastro. Vi lascio con grande tristezza per gli abruzzesi che, una volta spenti i riflettori, e succederà presto, dovranno cavarsela da soli. Roberto. Oggi esistono dei sistemi di monitoraggio che, sebbene non siano in grado di identificare con la precisione dovuta tempo e luogo di un terremoto, sono però in grado di individuare in senso probabilistico un'area geografica potenzialmente soggetta a un prossimo terremoto, grazie alla rilevazione di segnali premonitori, come ad esempio le prime scosse di avvertimento o altre evidenze. Nel caso di questi giorni in Abruzzo, tali segnali erano attivi da circa un mese. In tali casi si potrebbe imporre alle radio e soprattutto alle TV nazionali e locali la trasmissione di un comunicato o filmato preventivamente predisposto, una sorta di spot pubblicità progresso, per capirci, che indichi quali siano i comportamenti da tenere quando accade un terremoto. Ad esempio, fare sì che tutti i membri della famiglia conoscano i posti della casa da raggiungere velocemente se si avverte il terremoto, cosa fare e soprattutto cosa non fare, eccetera. Quindi, quando si raggiunge un certo livello di allarme terremoto, dare alla Protezione Civile l'autorità per imporre ai mezzi di comunicazione la trasmissione di tale comunicato. Un conto è aver letto o visto, mesi o addirittura anni prima, come comportarsi, e un conto è avere tale messaggio ben fresco nella memoria. Capisco che un servizio del genere all'inizio potrebbe causare qualche allarmismo di troppo, ma ritengo che la maturità delle persone sia tale da permettere loro di capirlo e apprezzarlo nel tempo. Raffaele. Il terremoto verrà sfruttato cinicamente da tutti. Dal governo, per bloccare le giuste richieste che salgono da ogni angolo del paese, dall'opposizione, che finalmente potrà esternare la propria insana voglia collaborazionista, dal sindacato, che metterà la sordina alle rivendicazioni della gente confluita al Circo Massimo, sarà l'argomento con il quale sarà schiacciata ogni richiesta, anche la più legittima, come egoista e incurante dei gravi problemi del paese. Sono contrario a fare sottoscrizioni. Non giunge niente ai destinatari delle varie sottoscrizioni che si fanno in Italia. Questo paese è esperto in tre cose: finanziari e usuraie che si offrono con volantinaggio a darti soldi, gratta e vinci, che è praticato in massa da tutti, a cominciare dai poverissimi, sottoscrizioni per tutte le malattie e per tutte le cause. Credo che se si vuole fare qualcosa, si potrebbe comprare un computer per regalarlo senza intermediari a un istituto scolastico dell'Aquila. Pietro. Strano paese il nostro. In un momento tragico come questo, c'è sempre chi non è capace di far altro che ottuse polemiche partitiche o anticlericali. Gli imbecilli fanno più danni dei terremoti. La polemica anti-Ratzinger, sostanziatasi in qualche gruppo creato su Facebook, proprio non la comprendo. Ho letto alcuni messaggi postati e trovo singolare quanto siano intolleranti, oltre che volgari e violenti, quelli che pretendono di assurgere a paladini della libertà di manifestazione del pensiero. È il momento del fare, dell'agire concretamente, e anche una preghiera per chi crede alla dignità dell'agire concreto. Tanti, troppi idioti non vedono, non vogliono vedere, perché incapaci di capire quanto la fede sia stata e sia ora di aiuto in questa sciagura. Non lo sostengo io. È sufficiente ascoltare con coscienza serena le dichiarazioni dei superstiti. Tanti, troppi idioti non lo capiranno. Gli stessi idioti, il cui fine, ripeto, è solo l'ottusa polemica, che nel volgere di poche settimane dimenticheranno il sisma, le vittime e i superstiti, in attesa della prossima tragedia, per avere ancora il pretesto di diffondere il loro credo stupido e violento. Strano paese il nostro, nel quale di solito le vittime vengono uccise due volte. Giorgio, Lecce. All'Italia è stata un banco di prova, lo avevamo capito tutti. Non tutti abbiamo capito però che attraverso la crisi, o meglio utilizzando la crisi, si sta cercando di trasformare il paese. Infatti, molte aziende che non ne avrebbero necessità immediata stanno utilizzando il consenso venutosi a creare per espellere manodopera garantita, ribaltando i costi sullo Stato, per poi assumere a tempo debito manodopera di serie B, ovvero precaria. In poco tempo, a questo ritmo, perderemo 2 milioni di posti di lavoro solidi. E chi sono le persone che stanno dietro questa cifra? Quarantenni e cinquantenni che non verranno mai più riassorbiti nel mondo del lavoro, troppo vecchi per lavorare e troppo giovani per andare in pensione. Avremo così creato un disastro strutturale che ci costerà stabilmente alcuni punti di PIL. Infatti, coloro che dovessero essere assunti al posto di questi espulsi guadagnerebbero molto meno e saranno con zero tutele. Entrambe le categorie non avranno un reddito degno né ora né al momento di ricevere la pensione. Stiamo permettendo di costruire le basi di un sistema che vedrà almeno 4 milioni di nuovi poveri strutturali, che si vanno ad aggiungere ai 7 milioni di poveri attuali. Vogliamo accettare che questo disegno si compia mettendo a repentaglio la convivenza civile nel nostro paese? O preferiamo che il paese faccia quadrato ora per difendere il lavoro e per aiutare ad uscire dalla crisi quelle aziende che sentono di avere un futuro in Italia? Prendiamone atto, anche se sembra non toccarci per ora. Tocca e toccherà tutti, ve lo assicuro. Toccherà tutti. Alessandro. Barack Hussein Obama, un nome che racchiude in sé una felice profezia sulla natura meticcia del mondo futuro, ha fatto di buono in 100 giorni più di quello che gli ultimi presidenti americani hanno fatto in 30 anni. Ha chiuso la prigione di guerra di Guantanamo, chiudendo con essa l'idea che il fine, la sicurezza dello Stato, giustifichi i mezzi, e cioè la tortura. Ha parlato apertamente ai popoli e ai governi musulmani, proponendo un'alleanza, da pari a pari, contro il terrore fondamentalista, senza tracotanza e, al contempo, senza subalternità, i due atteggiamenti ciechi tra i quali oscilla molto del pensiero occidentale. Ha vincolato gli aiuti all'auto a una radicale riconversione ecologica dei modelli e quindi del modello di trasporto globale metropolitano. Propugna la creazione di bad companies che assumano i titoli a più alto rischio, separandoli da quelli sani. Questa proposta è stata molto criticata perché ritenuta illusoria, ma francamente non ho sentito una proposta migliore venire dai suoi detrattori. Ha proposto un piano di progressivo disarmo nucleare totale. Ha rifinanziato la ricerca sulle cellule staminali, togliendo il veto oscurantista della gestione Bush. È un uomo politico che parla un linguaggio semplice e chiaro, ispirato a un buon senso e al pragmatismo, anziché all'ideologia. E lo fa risultando credibile, perché la sua storia personale, in qualche misura, parla per lui. È la prima volta nella vita che mi capita di fidarmi pienamente di un politico. Questo significherà anche accettarne gli inevitabili errori, che saranno frutto di errate valutazioni, ma non di malafede o cinismo. Credo che il mondo debba tenersi caro quest'uomo, che rappresenta ai miei occhi il riscatto di un modello sociale e culturale, quello della democrazia occidentale laica di matrice cristiana, squalificato da troppi cattivi esempi. Nicola Ferrara. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.